parli di me, ma guardati te, si ne valsa la pena. Si ne valsa la pena. Oh, oh, oh. Tu parli di me, ma guardati te, si ne valsa la pena. Non la credo a sta scema. Yeah. Tu parli di me, ma guardati te, si ne valsa la pena. Non la credo a sta scema. Ora ho pensieri in meno, yeah. Mi scordo di noi, che è meglio così. Ce n'è un'altra stasera. Ho risolto il problema, ma non sono sereno, yeah. Io fumo un altro grammo, così forse non penso. Se penso all'altro anno, manco pensavo a questo. Ne valsa la pena. Ora ho pensieri in meno, yeah. Da mattina a sera, chiama se c'è un problema. Entra pure se la tua è piena. Fumiamo bene, pensa a fottere sto sistema. Qua nessuno che ci sistema. Trattaci bene, yeah. Sono all'angolo, tu di che per me che dopo il prezzo lo abbassano. Yeah, per te lo alzano, non mi frego un cazzo, sono io qua allo spettacolo. Yeah, ora non ci sei, penso solo ai soldi, alla famiglia, a farmi i cazzi miei. Ehi, ehi, mentre fumo AIDS, devo stare calmo, fumo tanto se non impazzirei. Baby scusami, giù da me, siamo fatti così, soldi e l'erba dentro i jeans, yeah. Queste scene già le ho viste, quindi già so come uscirne. Tu parli di me, ma guardati te, si ne valsa la pena. Non la credo a sta scema. Ora ho pensieri in meno, yeah. Mi scordo di noi, che è meglio così. Ce n'è un'altra stasera. Ho risolto il problema, ma non sono sereno, yeah. Io fumo un altro grammo, così forse non penso. Se penso all'altro anno, manco pensavo a questo. Ne valsa la pena. Ora ho pensieri in meno. Prima non mi facevano entrare, ora non mi viene in mente un locale dove non posso fare ciò che mi pare. Aspetta che faccio mente locale. Io non voglio più pare, io non voglio più pare. Non vorrei fare la fine di chi ha insultato mia madre. Non mi posso fidare, sto mondo non ha spina dorsale. Sono fiero boy, seguo il mio sentiero boy. Cavaliero boy, il flow è sincero boy. Non dici il vero, 0,0 we. Ho un impero boy, come un mafutero boy. Prima di iniziare ci vai avvoltoi. Niente gratis, vorranno qualcosa in cambio prima o poi. Bitches vogliono i miei bitcoin. Il mio nome è dentro il grattacieli per i corridoi. Preferisco i bro all'etro, a meno che l'etro non abbiano altre tro per i miei bro. Ogni mio fratello è un bro, ogni mio livello è pro. Il cappello è sto, oggi mi sa che spendo un po'. Ma chi sei tu per dirmi ciò? Che devo fare questo, se quello no? Chi comanda il flow? Tutto il tuo budget nel mio show. Tu parli di me, ma guardati te, si ne valsa la pena. Non la credo a sta scema. Ora ho pensieri in meno, yeah. Mi scordo di noi, che è meglio così. Ce n'è un'altra stasera. Ho risolto il problema, ma non sono sereno, yeah. Io fumo un altro grammo, così forse non penso. Se penso all'altro anno, manco pensavo a questo. Ne valsa la pena. Ora ho pensieri in meno.